nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Eccoli qua, i due sono ritornati. Ci siamo. Esatto, ascoltatori felici. Ma speriamo di sì, naturalmente. Noi siamo felicissimi. Io in particolare sono felicissimo. Tra l'altro penso si veda anche dalla nostra pagina Facebook, dove siamo live anche questa mattina. Li vogliamo salutare, gli amici. Ecco, salutiamo i fedelissimi della radio, ma anche tutto il nuovo mondo dei social network, al quale ci dobbiamo abituare anche noi Matusalemme. Purtroppo tu che sei giovane farai meno fatica, ma io invece un po' di più. Ma allora, di che parliamo oggi, Deborah? Guarda, abbiamo allora la legge sulla concorrenza è veramente un serbatoio dal quale potremmo attingere per settimane e settimane, e oggi attingiamo per ben tre argomenti. Cominciamo intanto con le novità, che racconteremo molto velocemente, ma diamo già un assaggio sul rogito, l'atto che sigla la compravendita della casa dei nostri sogni. Il rogito è importantissimo, perché allora tutto deriva da questo, detto in estrema sintesi, ma poi se andate su pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi c'è tutto scritto. Allora, rogito, il notaio deve fare un conto dedicato. E allora cosa succede? Si può avere questa garanzia, è facoltativo, garanzia per cui voi che comprate mettete i soldi su quel conto del notaio, e finché non siete sicuri che la casa non c'ha qualche vizio, ipoteche, cose strane, allora se lo tiene. Sì, questo per il sommario, ma adesso ci andremo un po' più nel dettaglio, Mauro, su questa notizia, perché vale la pena approfondirla, perché guarda che i nostri ascoltatori amano tantissimo la casa. Poi parleremo di nuovo, sollecitati da voi ieri, dei costi per l'inizio della scuola. Allora, libri di testo, prezzi, nuovo o usato, digitale, online o il cartaceo tradizionale, come vanno questi due mondi? E poi parleremo del bonus 18enni, faremo il punto della situazione, parleremo anche di alcune iniziative per sostenere le famiglie, non solo quelle economicamente svantaggiate. Ci sono dei comuni d'Italia che pagano i libri di testo a tutti. È incredibile. E poi torniamo però sul DDL, sulla legge ormai concorrenza, perché ieri l'abbiamo detto molto velocemente, il turismo, cambiano delle cose, cambiano anche altre cose sulle assicurazioni auto, e allora restate in collegamento. Esatto, piatto ricco, mici ficco, si parte. Ma noi siamo venuti da lei, che è un notaio. Saggia ed oculata scelta. Io peraltro sono noto, né, per la mia chiosa all'istituzione di diritto civile, riscossione e segretezza. Sono apparso anche in TV nella rubrica Sentieri della Legge. Ecco dove l'ho vista lui, era pundente, tipo telefilm, Cogecco, lui è il tenente Cogecco. Uguale proprio, Prende, colonnello, tenente. No, perché il mio amico segue tutte le pundenze di Cogecco, prende le calecche e se lo mastica. Lui non parla, ma vede tutto, è intelligente, Questa non te l'aspettavi, Sentieri, no, la no, rubrica no. I Sentieri della Legge potremmo farla pure noi. Peccato che abbiamo già, c'è imposta per te, perché ma potremmo prendercela. Guarda, vabbè, invitiamo Lino Banfi. Allora, che novità abbiamo? Prima già, come dicevo, ci hai già dato un assaggio, ammettendo che io domattina debba andare a fare un bel rogito per comprare la casa dei miei sogni. Allora, c'è una tutela in più, cara Deborah, perché mettiamo che tu non sia sicurissima della affidabilità del venditore. Cioè, ok. Tu non sia parte bene questa operazione, già non sei però tanto la tranquilla. Casa ti piace e quindi potrebbe essere un costruttore di cui però non conosci bene tutta la storia, certo. Tutta la vicenda. E allora che succede? La legge adesso ti dà una garanzia in più. Tu puoi chiedere che il trasferimento, cioè il trasferimento del tuo denaro, e sappiamo che non sono cifre, i 2 eurini che prima avevi consegnavi ad Alessandro Milan, qui sono soldi veri, cara Deborah. Allora puoi chiedere che questi soldi veri siano depositati temporaneamente sul conto del notaio, perché il notaio è obbligato ad aprirsi un conto dove verranno collocati questi soldi. Diciamo subito una cosa importante, non è che poi il notaio ci lucra sopra, perché in realtà cosa succede? No, che bisogna vedere anche se i notai sono contenti di questa novità. Ma poi li sentiremo magari volentieri. In una prossima trasmissione. Il notaio poi su questo conto avrà magari degli interessi, perché ripeto non sono somme di poco conto, e questi interessi andranno a finanziare un fondo per le PMI, un fondo statale. Come? Beh, lo scopriremo solo vivendo. Ma ci non vuole sono soldi miei, attivo. Questo è un punto da chiarire, perché mi solleva già qualche dubbio. Senti, no, ma in realtà la cosa interessante, come riporta molto bene anche un notaio Paio, nostro amico, non solo di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, ma è passato spesso anche dai nostri microfoni, Angelo Busani. In realtà questa iniziativa di aprire un conto di deposito per appunto depositare un eventuale anticipo, tutta la cifra per comprare la casa, è appunto una facoltà per il... per l'acquirente. È una facoltà e l'acquirente può chiederla, però come argomenta giustamente Busani, questo comporta talmente tante modifiche nella prassi che si presume che questo prenderà abbastanza piede nelle nostre prassi. Qualche volta si fa anche questo, si vende e si compra nello stesso giorno, per cui uno cede il suo immobile e ne acquista un altro. Ecco, questo tipo di prassi sarà molto più difficile da perseguire. Perché questa tutela? Perché la legge mette questa tutela? Mettiamo che tu decidi di acquistare la casa dei tuoi sogni, hai già raccolto tutti i soldi, ti sei anche, come dire, già impegnata con un mutuo notevole, ti fai erogare la cifra, ma improvvisamente, ohimè, la trattativa salta per qualunque ragione. Sì, oppure si scopre che quella casa è viziata da qualcosa. Il caso più tipico è stata ipotecata. Poi ci sono anche casi proprio del malfattore che vende lo stesso immobile a più persone. Anche queste sono tutte verifiche che il notaio è tenuto a fare, e allora il conto serve appunto a trattenere. Però cambia, come dicevo prima, cambierà molto le nostre abitudini nell'acquisto di casa, poiché di solito uno non acquista case tutti i giorni, è importante familiarizzarsi per quando si arriva a quel momento che io almeno ricordo sempre come abbastanza emozionante e anche Mamma mia, non lo ricordare a me, guarda, è stato uno dei momenti più impegnativi dal punto di vista economico ed emotivo della mia vita. Però insomma, gli italiani sono dei grandi affezionati al mattone e alla casa, per cui è bene che su queste novità siano molto ben attenti e documentati. Quindi il conto del notaio blinda l'acquisto della casa. Vi segnaliamo questo pezzo sulle Sole 24 Ore, ma naturalmente noi interpelleremo al più presto uno dei nostri amici notai per entrare nel merito più dettagliato di questa notizia, rispondendo magari anche alle vostre domande. Oggi ce le potete mandare come sempre all'800 24 00 24, potete intervenire su tutti gli altri argomenti. Sulla casa andremo nei prossimi giorni, nel frattempo cominciate a tempestarci se volete di mail all'indirizzo cuore di denari chiocciola saluto Nicoletta che è di là, 2didenari@radio24.it. Ho detto tutto? Hai detto tutto? Non hai detto, guarda, se mi SMS. Permetto, 2didenari, che 2didenari è scritto a lettera, D-U-E, 2didenari, non con la cifra. Invece su Twitter, se volete, ci trovate, ma questa volta con la cifra, perché a noi piace complicarvi la vita. Benissimo. Tra l'altro, a proposito di novità, poi andremo al primo approfondimento di oggi, sta partendo anche l'ape volontaria, anche su questo tema il Sole 24 Ore è ben presente. 2didenari ci va domani sull'argomento, quindi preparatevi se siete intenzionati a chiedere l'anticipo pensionistico con le modalità individuate ieri dal provvedimento finalmente firmato dal Premier Gentiloni, Mauro. Sì, esatto, siamo quasi pronti con l'ape, questo possiamo dire, vi spieghiamo tutto domani. Il quasi c'è sempre. Io d'obbligo. Dico sempre, se è sugli avverbi che muoiono le civiltà e questo quasi è molto molto pericoloso. Allora, intanto si parte da oggi in alcune zone d'Italia, la scuola è iniziata. Guarda che su notai intanto stanno arrivando molti sms e molti messaggi su WhatsApp. Teneteli in caldo per quando faremo la puntata, e molti chiedono già chissà quanto chiederanno i notai in più nella parcella finale anche per farsi carico di questo adempimento. Bel tema. Ma guardate che con la legge concorrenza c'è anche l'obbligo del preventivo da parte del professionista. Ecco qua, il preventivo scritto, quindi potete anche tenerli, come dire, a freno o sapere quanto vi costa. Lasciamoli tranquilli oggi. Allora, Mauro, è arrivato già per qualcuno il primo giorno di scuola, partono oggi gli studenti di Bolzano, sono già partiti, poi sarà la volta, rifaccio l'elenco di tutte le regioni di Abruzzo, Basilicata, Friuli e Piemonte, oltre alla provincia di Trento. Per loro le vacanze finiranno l'11 settembre, quindi tra i primi e il secondo gruppo c'è ancora un bel lasso di tempo. Gli studenti di Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana saranno i più fortunati, le vacanze si protrarranno fino al 15 settembre. Oggi inoltre si svolge in tutta Italia il test di ingresso corso universitario per le facoltà di medicina, anche questo è un tema molto rilevante. Tra l'altro, dopo la, come sapete, la recente sentenza che ha bocciato il numero chiuso alle facoltà umanistiche della statale di Milano. Tema caldo, quindi, temi caldi che conosce molto bene Daniele Grassucci, cofondatore e responsabile comunicazione di scuola.net, scuola con la K, per chi volesse cercare come sempre il sito di questa organizzazione. Daniele, ciao, ben ritrovato, buongiorno. Ah, buongiorno, ben trovati. Con te faremo un punto sui consigli per risparmiare sull'acquisto dei libri e come se la sta vedendo adesso la battaglia fra il cartaceo tradizionale e il mondo online, il digitale che sta prendendo sempre più piede, e naturalmente nell'interregno c'è anche il mondo dell'usato che pure certo vive di ottima salute. Ma poi abbiamo anche un'amica di Due di Denari e del Sole 24 Ore, più che un'amica direi che è una firma. È Valeria Uva, infatti, che saluto. Buongiorno Valeria. Buongiorno a voi, ciao. Perché ti ho chiesto di chiamare Valeria Uva, cara Deborah? Perché ieri hai evocato i bonus, la carta docenti in particolare. Allora, però ci sono gli aspetti importanti, non bisogna confondere i due bonus. Adesso Valeria ce lo spiega bene, c'è bonus quello dei docenti e c'è quello dei diciottenni. Esatto. Per capirci, diciamo che è quello che dovrebbe, attenzione al modo del verbo, dovrebbe aspettare che, per esempio, a Gigio Donnarumma. Segui il calcio. Sì, perché ho un nipote stra appassionato e soprattutto guarda questi campioni giovanissimi come dei modelli inarrivabili. Lui dice, insomma, io ho 9 anni e mezzo, se non mi sbrigo qua arrivano i 18 anni, non ho combinato nulla, per e cui, poi non prendi magari neanche il bonus, vero Valeria? È così? No, di Donnarumma avevamo tanto parlato per il fatto che non ha fatto gli esami di maturità per andare ad allenarsi, era lui, no? A proposito di scuola. Ecco, esattamente. Valeria, allora, bonus 18 anni, a che punto siamo? A che punto siamo? Diciamo che siamo a metà strada. Il bonus dei 18 anni è arrivato ai 19 anni, diciamo così. Questo è il paradosso, nel senso che i ragazzi nati nel 98 lo hanno potuto prendere, lo stanno già, diciamo, utilizzando. Se naturalmente si sono registrati al sito, e per loro diciamo che la campanella non solo è suonata ma è anche scaduta, nel senso che tutti i ragazzi del 98 dovevano registrarsi al sito 18 app entro il 30 giugno scorso. Quanti l'hanno fatto? 6 su 10, non tutti sono stati correttamente informati, il 60% di loro lo hanno fatto. Il vero problema però è per chi i 18 anni li ha compiuti quest'anno, quindi ragazzi nati nel 99. Perché in realtà il provvedimento che eroga questi 500 euro anche per loro c'è, però come al solito manca qualche gamba. Ma non c'è, diciamo così, c'è ma non si vede soprattutto, nel senso che la legge di bilancio di quest'anno, del 2017, ha stanziato appunto, come dicevi giustamente tu, anche per loro i 500 euro. Però sono rimasti congelati. Perché? Perché manca un decreto attuativo che doveva arrivare entro il 31 gennaio e ancora all'orizzonte non si vede. Allora, volevo solo ricordare il motivo per cui ieri abbiamo richiamato il famoso bonus per i diciottenni, perché la Confesercenti aveva evidenziato come la categoria dei librai quest'anno avesse beneficiato di questo bonus, visto che si possono spendere questi soldi anche per i libri di testo. E quindi magari, Valeria, vale la pena forse ricordare effettivamente, una volta erogato, una volta ottenuto questo importo, perché cosa si può utilizzare, per cui magari risollecitiamo un po' sia da una parte il governo a fare il provvedimento attuativo della nuova tranche, dall'altra parte possiamo anche segnalarlo a tutti quelli che hanno perso quest'anno questa occasione, in modo tale che i neodiciottenni possano evitare di farlo. Donnarumma, io sono molto preoccupato che Donnarumma non possa utilizzare il comprare bonus per i libri di testo per fare la maturità vabbè. L'hai ricordato prima. Esatto. Dici, Valeria, per cosa si potrebbe spendere? Esatto, i libri soprattutto. Diciamo che proprio la mancanza di questo decreto, tutto sommato, riguardo ai tempi non aiuta, perché appunto i diciottenni l'avrebbero potuto sfruttare molto bene per l'acquisto dei libri scolastici, per fare la maturità o magari per iscriversi all'università. E in effetti, appunto, quindi la mancanza in questo momento si farà sentire. Quello che hanno fatto i loro colleghi leggermente più anziani, cioè i ragazzi del 98, è appunto acquistare soprattutto libri. Secondo i dati diffusi dal governo, ad esempio, sono stati spesi per l'acquisto di testi online o cartacei ben 52 milioni sui 290 che erano a disposizione. ed è appunto una voce che stacca tutte le altre. Al secondo posto c'è quella per la spesa per i concerti, che però è stata soltanto di 7,9 milioni. Certo. Può essere anche il bonus, però può essere anche speso per cinema, teatro, musei ed altri eventi culturali. E insomma, quindi quando un buon provvedimento innesca anche un circolo virtuoso, dobbiamo dirlo, Mauro, no? Sì, anche se mi ha colpito molto questa percentuale che ci ha dato Valeria prima. I 6 cioè su 10? Soltanto 6 su 10 lo hanno utilizzato, forse c'è stata poca informazione, chi lo sa, oppure anche da parte nostra, da parte della radio, dei giornali, magari può non darsi. Abbiamo insistito a sufficienza. Forse mentre qualcuno è anche un po' scoraggiato dalla modalità, perché bisogna attivare l'identità digitale, sicuramente anche quello, ma per un diciottenne questo non dovrebbe rappresentare un freno, un deterrente, no? Valeria, che ne dici? Sì, esatto, bisogna avere SPID, il cosiddetto codice SPID per cominciare per iscriversi alla piattaforma e cominciare poi a ottenere e a scaricare i buoni. Probabilmente, secondo me, quello che può aver influito è anche il ritardo con cui si è mossa tutta questa macchina. Ricordiamo che per gli stessi ragazzi del 98 il bonus è entrato in funzione, poi è stato cominciato, diciamo così, ad attivarsi soltanto da novembre dell'anno scorso. È vero che questo ha portato a una proroga dei tempi di registrazione e di spesa, proroga che è molto probabile anche per i ragazzi del 99, altrimenti non avrebbero proprio il tempo di utilizzarlo. Però, la lentezza con cui è stata avviata questa macchina può avere avuto un peso. C'è Giuseppina da Modena che ci scrive: mia figlia del 98 ha preso il bonus, lo ha utilizzato per acquisto di libri, non era riuscita peraltro perché i cinema e i teatri sono poco informati e quindi fanno un po' spallucce rispetto a queste iniziative, ma quando ha dovuto fare la registrazione è stato tutto molto farraginoso. Mi auguro che si semplifichi tutto quanto. E tra l'altro, Valeria, tu hai citato SPID, forse non tutti gli ascoltatori lo sanno, è questa identità digitale unica, bisogna attivarla, ma come si fa ad avere lo SPID, ad avere questa identità digitale? Ci sono vari canali e vari provider, il giovane ha diverse possibilità di scelta, uno può essere quello di recarsi alle poste, ma anche TIM ad esempio ha attivato un riconoscimento, cioè può rilasciare il codice SPID, anche Silte e InfoCert, è tutto spiegato sul sito 18app. Benissimo. Molto bene. Ottimo. Allora, Daniele Grassucci, scuola.net, eccoci a noi. Sicuramente anche questa è una materia che voi nel vostro sito avete scandagliato in lungo e in largo. Tra l'altro, quando è partita l'operazione proprio con te, avevamo fatto la trasmissione con Nicoletta per spiegare ai nostri ascoltatori come sarebbe funzionata tutta l'operazione. Allora, bonus utilizzato anche per l'acquisto dei libri di testo per andare a scuola per l'avvio dell'anno scolastico. Chi vince quest'anno tra il cartaceo e il digitale? Beh, fa strano dirlo, perché comunque stiamo parlando di una generazione, la generazione Z, insomma, quella degli attuali studenti, che è completamente digitale, nativa digitale, e in realtà nelle preferenze degli studenti vince ancora il libro cartaceo, cioè gli studenti potendo scegliere, la maggior parte opterebbe per la soluzione tradizionale, e solo il 30% sceglierebbe il digitale in base alle materie, invece sono solo 1 su 5 quelli che invece sceglierebbero il digitale a priori. Questo perché molto probabilmente ad oggi questa piattaforma non viene ritenuta idonea per il tipo di studio che viene richiesto dalla nostra scuola, che è uno studio molto nozionistico, per cui ecco, bisogna passare molto tempo ad apprendere informazioni piuttosto che magari in altre attività, tipo i progetti, i lavori di gruppo e quant'altro. Peraltro il digitale non sempre fa risparmiare le famiglie, dipende dai casi. Ecco, ci sono dei testi per cui la versione digitale permette un taglio della spesa del 50%, ma altri invece in cui il risparmio si attesta attorno al 15-20%, e poi bisogna sempre mettere in considerazione la spesa del tablet, ecco, perché poi questi libri il digitali assolutamente sono fruibili attraverso dispositivi evoluti, ecco, non si può pensare di poterne fruire attraverso un e-reader di quelli, insomma, bisogna avere o un computer o un tablet, ecco. Ma quanto è digitalizzata, a vostro parere, la scuola nel suo complesso? Perché in alcune scuole è anche normale, ad esempio, fornire il tablet, che lei citava prima, magari con una piccola spesa mensile da parte delle famiglie, che poi viene diluita negli anni, una specie di acquisto in leasing, sì, per fare un paragone. Un ammortamento, cioè. Sì, in realtà questa pratica purtroppo non è ancora molto diffusa, ecco, dai nostri dati sono solo tra il 10% le classi in cui è avvenuta questa transizione, e sono ancora meno quelle in cui è avvenuta questa transizione grazie ad un'operazione della scuola che ha realizzato questa pratica che veniva descritta precedentemente, ecco, quindi ce ne sono, ma sono ancora molto poche. Il vero problema della scuola italiana è che funziona un po' a macchia di leopardo, grazie o per colpa, insomma, per questo sta ad altri probabilmente dirlo, per me sarei più per la colpa, ecco, per colpa dell'autonomia scolastica che non è gestita correttamente a mio avviso. Attualmente ci sono delle scuole che sono libere di realizzare dei progetti di eccellenza e di offrire dei servizi assolutamente avanzati, però peraltro ci sono delle scuole libere invece di rimanere arretrate senza che nessuno possa sostanzialmente intervenire. Questo crea un disvalore perché invece il sistema, per funzionare, dovrebbe far sì che le scuole, insomma, in qualche modo illuminate, possano creare dei modelli che siano replicabili invece nelle scuole che hanno maggiori difficoltà da questo punto di vista. Grazie Grassucci, resti lì perché noi adesso ci dobbiamo fermare, sì, giusto Deborah? Sì, esattamente, volevo anche presentarti un bravo sindaco che ha deciso in un comune in provincia di Reggio Emilia di incaricarsi di tutta l'operazione, in gran parte dell'operazione finanziaria che le famiglie devono sostenere per l'avvio dell'anno scolastico. Ci pensa il comune a comprare libri per tutti, lo sapevi? È quindi meraviglioso. Esatto, allora fra un po' lo facciamo conoscere anche ai nostri ascoltatori. Prima però un po' di spot e anche la borsa, caro Mauro. Oh, dimenticavo. Questo è un impegno che adesso ti devi mettere bene in testa, perché non si sfugge, perché poi gli ascoltatori se ne accorgono. La borsa è come l'IVA, ti guarda sempre. Esatto, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari, che parlano oggi di nuovo di scuola. Cosa dicono, sì, gli ascoltatori, Mauro? Gli ascoltatori ci dicono, ad esempio, ci consiglia un ascoltatore che ci scrive: mio figlio l'ha usato il bonus 18 anni per i libri di testo, quindi è un ragazzo del 98, come ci ha spiegato prima la collega Valeria Uva, e consiglia per lo speed, che sempre Valeria ci segnalava, guardate, è uno dei punti più intricati che potrebbero presentare delle difficoltà, per lo speed consiglierei di rivolgersi alle poste, noi riferiamo, magari altri hanno invece esperienza con altri operatori. Però mi ha incuriosito prima dicendo questa cosa, questa cosa, che ci sono addirittura dei comuni che ti pagano i libri, e quindi niente bonus, niente carta docente, niente. A Quattro Castella, Reggio Emilia, il sindaco Andrea Tagliavini, che abbiamo in collegamento. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a voi. Ma allora, voi fate praticamente con 30.000 euro, avete deciso di dare a disposizione di tutti i ragazzi che frequentano la scuola media, sono circa 450, un buono libri che è aggiuntivo rispetto a quello ministeriale, cioè uno usa il buono che può essere ministeriale, ma in alcuni casi può arrivare alla copertura totale della spesa, la spesa per i libri, che appunto, stando alle soglie ministeriali, si aggira sui 540 euro per il triennio. Come mai questa decisione, signor sindaco? Ma noi abbiamo deciso di intervenire in questo campo perché la spesa che le famiglie sostengono per mandare i propri figli a scuola, anche quando si tratta di scuola dell'obbligo, è molto elevata. 540 euro a figlio in 3 anni solo per i libri, a cui si aggiungono la cancelleria, gli zaini, tutti i corredi, gli astucci e quant'altro. La mensa e tutto quello che serve. La mensa e tutto il resto. E c'è un principio, che è quello del diritto allo studio, che dovrebbe mettere nelle condizioni tutte le famiglie, anche per costituzione, dettato dalla Costituzione, di poter mandare il figlio a scuola almeno senza sostenere il costo dei libri, come già avviene tra l'altro alle scuole elementari. Quindi l'incongruenza è che fino alle elementari i libri sono pagati, poi dalle medie per i 2 anni del ciclo superiore, tutta la scuola dell'obbligo, dopo si pagano. Noi abbiamo deciso di intervenire su questo campo, e quindi per le nostre famiglie residenti iscritti alle scuole medie, che sono circa 450, daremo un contributo che tra l'altro eroghiamo in maniera anche un po' originale nella sua semplicità. Cioè? Perché il nostro contributo coprirà il 25% della spesa per tutti in modo semplicissimo, cioè non servono scontrini, ISEE o altre certificazioni, basta una autocertificazione di iscrizione alla scuola e l'indicazione dell'IBAN su cui noi faremo l'accredito. e questo dovrà essere presentato ad ottobre e noi entro dicembre eroghiamo questo primo 25%. A settembre del 2018, per tutti i ragazzi e le ragazze che avranno scelto di fare un periodo di volontariato estivo con associazioni del territorio, erogheremo un ulteriore 25% di contributo, per un totale quindi massimo che va a coprire il 50% della spesa dei libri, di circa 265 euro a famiglia nel triennio. Poi il fatto che sia accumulabile con il bonus ministeriale per l'acquisto libri per le famiglie meno abbienti fa sì che per le famiglie appunto con più difficoltà economica pagheremo il 100% del costo dei libri. Sindaco, lei sarà amatissimo a Quattro Castella. Diciamo che questo è un provvedimento molto apprezzato, tra l'altro proprio ieri sera lo abbiamo presentato ai genitori e il progetto è stato apprezzatissimo proprio per la semplicità, la concretezza e anche perché premia l'impegno sociale dei ragazzi. Infatti. Voi avete parlato anche di libri usati, no? Noi abbiamo discusso anche, noi paghiamo ovviamente i prezzi, ci riferiamo ai libri nuovi, però se una famiglia deciderà, come noi speriamo, no? Di utilizzare anche libri usati, magari passandoli da un fratello all'altro, quando sono ancora in uso, bene, otterrà ugualmente il buono, perché noi ci parametriamo rispetto ai livelli di spesa previsti dal Ministero, quindi noi eroghiamo ugualmente il buono che potrà essere utilizzato per le altre spese, quindi non è disincentivante per esempio l'utilizzo dell'usato, che è anche un modo buono per risparmiare. Ma per ci le mancherebbe famiglie. Altro, infatti. Sindaco, insomma, noi auspichiamo che il suo esempio sia seguito da altri sindaci d'Italia che naturalmente hanno anche qualche soldino in bilancio per poter fare questa operazione, perché non è facile per tutti, per cui grazie, metteremo a disposizione. Volevo solo dire che noi scriveremo anche al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Istruzione, perché riteniamo che noi abbiamo iniziato questo percorso, però così come avviene per le scuole elementari dovrebbe essere la Repubblica Italiana a pagare i libri di testo nel ciclo della scuola dell'obbligo e quindi ci auguriamo di aver avviato una strada, ma che poi a livello nazionale si faccia un provvedimento così come già per le scuole elementari che copra anche gli altri anni di scuola dell'obbligo. Grazie Sindaco Tagliavini, grazie. Bocca al lupo per tutto. Allora, intanto ti voglio segnalare, visto che parliamo di bonus, di sconti, di agevolazioni, la carta del docente, esatto. Perché non dobbiamo fare confusione, c'è quella per i diciottenni, cioè ci sarebbe quella per i diciottenni, perché come ci ha spiegato Valeria Uva è ferma, ma dal 14 settembre c'è il bonus, il nuovo bonus di 500 euro che è per i docenti, la carta del docente. Quindi i docenti ed esercenti dovranno aspettare il 14 per accedere a questa applicazione, e però appunto gli importi di somme non spese e buoni prenotati verranno poi attribuiti al residuo dell'anno scolastico. E a margine ti voglio anche dire, saranno gratuiti i libri di testo per le aree terremotate. Esattamente, tutta la procedura si è messa in moto nel corso dell'estate, ma volevamo appunto ricordare che si è completata, per fortuna con successo. L'ultima domanda, Daniele Grassucci, abbiamo fatto prima il confronto tra mondo cartaceo e digitale, il sindaco Tagliavini prima citava anche la questione dell'usato, l'usato vive una stagione felice, oppure come dire, i libri usati si fa fatica ad utilizzarli? Peraltro c'è una statistica sempre vostra, probabilmente una nuova ricerca, che dice che in realtà il mercato dell'usato è proprio letteralmente impicchiata. Un minutino Daniele, poi devo passare al prossimo argomento, grazie. Sì, assolutamente, l'usato da anni insomma sta perdendo quota di mercato, le famiglie preferiscono rivolgersi sempre di più al nuovo, un po' perché l'usato non sempre magari è utilizzabile per via insomma dell'evoluzione e della transizione dal cartaceo al digitale, per cui le edizioni invecchiano in fretta, ma anche perché online e nella grande distribuzione si moltiplicano gli sconti sul nuovo, fino al 20% quando si parla di sconto del 20, sul libro, addirittura anche cifre superiori quando si parla di cashback, perché ricordiamo che per legge non si può offrire uno sconto superiore al 20% sul prezzo di un libro di testo, quindi l'online sta letteralmente esplodendo, ma anche la grande distribuzione sta diventando una valida alternativa a mercatini e cartolibrerie, e quindi il nuovo si avvicina come risparmio all'usato e questo lo fa preferire alle famiglie. Quanto hanno speso invece gli studenti per prepararsi al test di medicina che affronteranno oggi? Beh, noi abbiamo fatto una stima oltre 3 milioni di euro. Solo per iscriversi, poi ci sono tutti i costi della preparazione, quindi libri di testo piuttosto che corsi o altri strumenti di preparazione. Quindi una media individuale qual è? di spesa? Beh, la media individuale è solo per il test di 50 euro e più ci sono tutti gli altri costi appunto di preparazione, che vanno dai 20 euro per un semplice libro di testo fino anche alle centinaia di euro per i corsi si di preparazione. Si può arrivare anche a 500 euro, è la cifra più gettonata di stamattina. Stamattina siamo sempre sui intorno ai 500 euro. Benissimo, ringraziamo allora Daniele Grassucci, Valeria Uva e il sindaco Tagliavini per essere stati con noi. Mauro, insomma, l'inizio dell'anno scolastico è sempre molto intenso, speriamo di aver completato tutte le informazioni, almeno per quanto ci riguarda, e poi naturalmente continueremo a parlarne, perché ci sono tante cose che corredano, proprio il caso di dirlo, l'avvio dell'anno scolastico. Cambiamo argomento, torniamo un po' sulla legge concorrenza. Ma ti sì, piace? Dai, ma sì, mi piace. So che partiamo. Sei molto appassionata di legge concorrenza. Allora, ieri... Aspetta un attimo, non vuoi sentire la canzone che avevamo preparato per lanciare l'argomento? Ah, ma certo! Sentiamo. Come fly with me, let's fly, let's fly. Io lo so che se non le canti tu non le vuoi mandare in onda, però devi abituarti al fatto che Frank Sinatra, come dire, è stato storicamente un po' più famoso di te, anche se con i Chapter 11 non si sa mai. Ma che è la tua seconda vita di musicista. No, per il collega Frank abbiamo una grandissima stima, ecco. Allora, legge sulla concorrenza, entrata in vigore a una settimana di vita, il famoso articolo con un sacco di commi, e c'è 192 questa, per gli amanti dei numeri. È la legge 124, allora completiamo, ci rigiochiamo all'otto, superenalotto, dove vogliamo. Allora, norme sul turismo, le novità. Ieri abbiamo dovuto brutalmente salutare sul finale di trasmissione Gianfranco Battisti, presidente di Federturismo Confindustria, ma lo abbiamo riacciuffato perché le novità sul turismo, le prenotazioni alberghiere ci interessano sicuramente. Presidente Battisti, eccoci a lei, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ce la vuoi riassumere, Mauro, la questione alberghiera, come viene disciplinata con la nuova norma? In estrema sintesi succede questo. Noi adesso non potevamo chiedere uno sconto maggiore rispetto a quello che trovavamo sul sito quando ci recavamo all'albergo. Adesso l'albergo è libero di praticare un prezzo migliore rispetto a quello che noi abbiamo trovato con i comparatori e i sistemi di prenotazione digitali, quelli da internet che conosciamo tutti. Esatto, allora io ieri ho chiesto al presidente, proprio sul finale di trasmissione, essendo un po' stupita di questa novità, ma come mai, presidente, prima non era possibile, nel senso che io voglio prenotare l'hotel Pinco Pallino utilizzando un comparatore, vado a vedere che offerta mi fa, poi sul sito ufficiale del sito in realtà il prezzo era prima un po' più alto, perché altrimenti non aveva senso neanche divulgare la propria proposta commerciale sui comparatori. Adesso in realtà, presidente, scopro appunto che venendo direttamente da voi potete andare ancora più in basso. Ma questo significa che non andrete più sui comparatori a promuovere le vostre offerte? Beh, questo insomma potrebbe essere una soluzione, diciamo che dà più libertà agli albergatori, sintetizzandola, nel senso sono più liberi di promuovere la propria attività commerciale attraverso un prezzo più competitivo rispetto ad oggi. Prima c'erano dei contratti con questi sistemi di prenotazione digitali, quindi i grandi network tipo Booking e altro, che imponevano una sorta di disciplina che era quella di non avere un prezzo più basso rispetto all'accordo che si stipulava con loro, e quindi l'albergatore faceva fatica anche in periodi, diciamo così, di bassa stagionalità, e quindi a proporre prezzi particolarmente competitivi. Questo, con questa nuova norma, si libera il mercato, c'è la possibilità finalmente che l'albergatore possa proporre dei prezzi più bassi rispetto agli accordi che ha con queste piattaforme digitali, ma soprattutto un vantaggio per il cliente. Oggi il cliente, l'abbiamo visto anche nei paesi dove è stata già introdotta questa norma, tipo la Francia ad esempio, e abbiamo visto che c'è un reale beneficio sul consumatore finale, e questo credo che sia veramente l'elemento di grande vantaggio competitivo che oggi questa legge introduce sul mercato, insomma. Un attimo, presidente, le chiedo un momento di pazienza, perché adesso, come gli ascoltatori ben sanno, è il momento del traffico. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta di denari. Bentornati a Due di Denari, bentrovato di nuovo al presidente Gianfranco Battisti, che è presidente di Federturismo Confindustria. Vi stiamo spiegando che abbiamo la possibilità di chiedere sconti maggiori al bureau, proprio alla reception, quando andiamo alla reception dell'hotel, rispetto a quello che troviamo su Booking o su altri comparatori. Ma volevo chiederle, Presidente Battisti, è stata un'annata forte questa, buona per il nostro turismo, giusto? Sì. E non avevate ancora questa norma, pensi un po' lei, no? Beh, certo, questa norma sicuramente diciamo che aiuta, perché comunque è una leva in più che ha l'albergatore. Certo, l'albergatore dovrà investire anche un po' in quelle che sono le strategie di web marketing, no? Che oggi magari appoggiandosi a grandi portali magari uno tende un po' a trascurare. Quindi questo sicuramente farà in modo che gli albergatori mettano in campo delle campagne di posizionamento sicuramente molto più competitive, quindi investano di più su quelli che sono i motori di ricerca per quanto riguarda le parole chiave, investono più, diciamo, su quella che viene chiamata in sintesi web marketing, insomma. E noi siamo molto confidenti che questo accada, insomma. Presidente, io so che, ma non vorrei sbagliarmi nella memoria, ci sono anche degli incentivi per l'ammodernamento degli alberghi, ma non ricordo se sono ancora attivi. No, sono ancora attivi. C'è la possibilità di accedere a un sistema di agevolazioni sia fiscali ma anche di contributi, e anche in alcuni casi a tassi molto molto vantaggiosi, sono tuttora operativi. C'è da dire che in questo anche Industria 4.0, diciamo, abbiamo fatto un passo avanti, perché il turismo viene considerato di fatto come lo è un'industria, e credo che, insomma, con questa nuova disposizione di Industria 4.0 vada proprio in questa direzione. Bene. Presidente, noi ci teniamo che gli italiani riprendano a viaggiare e a frequentare gli alberghi di tutta Italia per godersi qualche momento di sereno riposo. Segnali di risveglio dell'economia in Italia ci sono, ancora non sono consolidati, capitalizzati, come si dice, però insomma qualche segnale c'è. Speriamo che questo settore dia il suo contributo, perché ve lo meritate. Grazie per essere stato con noi. Sì. Grazie a voi. Benissimo. Buona giornata, arrivederci. Allora, norma sulla concorrenza, terzo round. Eh sì, perché adesso c'è un momento di un audio che introduce il nuovo metodo. Esatto. Vedi che imparo alla svelta, Deborah? Ma siete proprio giovani, io avrei messo Baby You Can Drive My Car dei Beatles, invece qui sono tutti molto giovani. Io avrei messo Gianni Morandi, andava a 100 all'ora per vedere la bimba mia, quindi figuriamoci qua. Ma qui è Marco Lombardo che è giovane, che ci aiuta. Detta legge, la generazione dei trentenni. Ecco, allora, ma perché Cars? Perché abbiamo messo una canzone che parla di auto? Allora, agli italiani piace tanto parlare di casa, Mauro, tu lo scoprirai strada facendo con Due di Denari, ma piace tanto anche il tema delle assicurazioni, perché pure quelle praticamente le paghiamo tutti. E quindi è stato un bel salasso negli anni passati, no? Sai che noi siamo considerati come sistema Italia quelli dove le assicurazioni per l'auto sono le più care in tutta Europa, per tutta una serie di motivazioni, anche perché abbiamo un'attitudine alla denuncia del sinistro anche quando questo non è avvenuto proprio secondo le modalità che denunciamo, tutta una serie di cosine che non ci rendono molto un mercato diciamo ideale per l'assicurazione. Esatto. L'assicurazione allora è stata toccata anche dalla misura sulla concorrenza, perché ritorniamo a parlare dell'introduzione della scatola nera per tutti quegli automobilisti che accetteranno di farla installare. Arrivano degli sconti che erano già possibili, ma adesso la norma sulla concorrenza è un po' più incisiva in questo senso, anche se ancora non si sa di quanto sarà questi sconti, perché l'entità dovrà disciplinarla l'IVAS, l'autorità di vigilanza sul mercato. Questa è una delle notizie, ma tutte le altre ce le racconta un ospite che ti presento, che è Luca Franzi, presidente di AIBA, l'associazione italiana dei brokers di assicurazione. Franzi, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. In 5 minuti deve sintetizzarci le novità più importanti per i nostri consumatori / conducenti / automobilisti / assicurati. 5 minuti sono pochissimi, ma farò del mio meglio. Ma diciamo che un aspetto che non è noto ed è abbastanza curioso è che sono previsti degli sconti non soltanto per quanto riguarda l'installazione della scatola nera, che va ricordato è quel sistema che consente di monitorare la virtuosità dei conducenti e quindi il rispetto delle regole, e quindi anche in qualche modo di customizzare quello che è il costo della copertura assicurativa in funzione di quello che effettivamente è lo stile di guida. Ma quello che è un altro aspetto singolare è che è stato anche inserito una nuova opportunità di scontistica attraverso l'adozione di un sistema che di fatto misura il livello di alcol nel sangue e quindi impedisce l'accensione del veicolo qualora il livello alcolemico sia superiore a quelli che sono i livelli. E che cos'è un chip? Come si fa? Cos'è questa scatola nera? Veramente ha una sensibilità alle stelle. È un volante col naso, insomma. Accidenti! Ecco, questo, devo essere sincero, non lo so ancora, non si sa. Però diciamo che certamente l'ideale concorrenza che in questo caso cerca di perseguire non tanto solo ed esclusivamente quella che è la strada di un maggiore controllo su quelli che sono i costi, ma anche di individuare dei principi che consentano una maggiore virtuosità da parte dei conducenti, perché oltre a questo nuovo, diciamo, marchingegno di cui conosciamo poco quelli che possono essere i meccanismi di funzionamento, ad esempio è stata anche inserita l'opportunità di far fare una revisione periodica ai veicoli a spese della compagnia di assicurazione, in questo modo garantendo che anche le condizioni del veicolo siano ottimali. Mm-mm. Ma sempre andando alla ricerca di quella che è una maggiore economicità delle coperture assicurative, veniva ricordato appunto all'inizio di questo intervento come le coperture assicurative italiane siano di fatto un po' state accusate di avere dei valori superiori alla media. Ebbene, questo certamente è stato anche il risultato di un'attività, diciamo, non sempre è corretta nella denuncia dei sinistri. Allora, quelle che è un'ulteriore, diciamo, novità inserita al DDL concorrenza è che i testimoni da, diciamo, citare di comodo esatto, potranno essere meno di comodo in quanto il testimone dovrà essere indicato all'atto della denuncia del sinistro, non potrà essere indicato successivamente a meno che al momento della denuncia del sinistro non fosse identificabile. Ma ancora più importante, e ci sarà una banca dati dei testimoni, perché assolutamente sì, perché ci sarà una banca dati. Ci sono i pluripresenti a più incidenti? Sì. Sì, tant'è che la Procura della Repubblica dovrà segnalare coloro che hanno testimoniato più di 3 volte degli ultimi 5 anni. Che lavoro fai? Tu il testimone di comodo degli incidenti. Incidenti stradali. Va bene. E questa è un'altra novità, un'altra importante da segnalare, Presidente Franzi, poi prossimamente daremo più spazio. Sì. Ecco, un'altra novità importante da segnalare è quello che peraltro avrà un impatto anche non solo nell'ambito dell'RC auto, ma anche in quella che è la nuova disciplina della responsabilità dei medici, la cosiddetta legge Gelli, cioè l'inserimento di una tabella di valutazione calmierata di quelle che sono le percentuali di invalidità permanenti per la fascia da 10 a 100 punti. Quindi andando in qualche modo a limitare il potere discrezionale dei giudici nella quantificazione dell'invalidità permanente da un lato e andando a dare degli indicatori che siano, diciamo, maggiormente preidentificabili al momento dell'apertura del sinistro in funzione di quella che è la lesione che viene denunciata. Noi sappiamo che per le microinvalidità questo già esisteva fino al 10% e oggi verrà inserito anche un nuovo modello dal 10%. Franzi, noi dobbiamo salutarla, ci sono anche delle novità che riguardano le polizze assicurative associate ai mutui, c'è tutto il tema della privacy che già gli ascoltatori stanno sollevando, per cui altri temi mi stanno segnalando che devo interrompere, e quindi ritorneremo ad invitare Luca Franzi. Mauro, se sei d'accordo, intanto noi andiamo a preparare la puntata di domani. Parliamo di APE domani, l'anticipo pensionistico arriva, sta arrivando, arriverà, abbiate pazienza, per adesso c'è solo quello social cosiddetto. Domani andiamo alla volontaria.